It is later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli la luce della luna rischiara solo pochi angoli, K e Drago cercano di decifrare il messaggio in tedesco. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Stai starnazzando come un'oca. No, come un pollo. Vabbè, anche comunque un'oca, stai zitto un momento. Non disturbarmi, Drago. Sto cercando di decifrare il messaggio dell'altoparlante. Shh. Con questo utilissimo coso, vedi, posso provare a ripulire la voce dai filtri e risalire alla voce originaria, che non potrà che essere quella di Himmler, vedrai. Sì, Himmler, ma che coso è questo? Ma cosa vuoi che ti spieghi, Drago? Non capisci niente di matematica, non capisci niente di mimetica, certo. Non capisci neanche niente di cibernetica, sì. Per cui non capisci niente, lascia perdere. Sì, è vero, non capisco niente, ma non sono così tonto da credere che esiste un coso che toglie i filtri dalle voci. Come no? È un coso, cos'è? Un software? È una ma specie di... Ma lascia stare, Drago, software già è una parola troppo complessa. È una scatolina magica, vedila così come gli indigeni con le perline o con l'acqua di fuoco. Va bene, bella, bella la scatolina magica, però cosa devi fare con questa scatolina magica? Devo aspettare che diffondano un nuovo messaggio in tedesco e poi riuscirò a filtrarlo. Ma Kappa, cosa fai con quel becco aperto? Ma oggi sei strano. Ma lascia stare, Drago, non ho niente. Si sta polizzando. Ecco qua, pollo in sbattimento, ciao. Ah, ciao, ma sei in sbattimento oggi? Beh, certo, sono il pollo in sbattimento. Se non sono in sbattimento io... Anch'io comincio un po' a sentirmi un po' in sbattimento. Però non so, è una sensazione strana. Attenzione, ma Kappa si sta pollizzando. Vedi, si sta pollizzando Kappa. Sarebbe meglio farsi visitare. E infatti Kappa, fatti visitare che è meglio. Ma dove fatti visitare? Ma da chi? Beh, nell'ambulatorio. Ah, c'è un ambulatorio? Certo. E c'è il dottor Freus. Il dottor? Freuse. Hai capito, K? Sarai visitato dal dottor Freuse, omonimo di quello dei Tangerine Dream. No, si dice Freuse, non Freuse. No, Freuse sembra dialetto milanese. Di dove credevi che fosse, dottor Freuse? Non so, Svizzera forse, no? Ma no, si chiama Frosio di cognome. E poi noi lo chiamiamo familiarmente Freuse. Freuse. Ed è un veterinario molto preparato. Un veterinario? Ma come un veterinario? Un veterinario. Un veterinario, per forza. Cosa credi, che qui ci siano i luminari della medicina? Sì. I principi del bisturi? I principi del foro? Il foro. Qui puoi scegliere tra macellai e veterinari. Beh, scegli tu. No, non so, io veramente... No, Kappa. Veramente vorrei un medico vero io, sì, Drago. Scusa, un medico per gli... adesso, sì. Qui ci sono anche i coroner, Come i coroner? E sono anche quelli che lavorano di più, tra l'altro. I coroner sono i medici legali, giusto? Certo. Sono quelli che attestano che il pollo è veramente morto. Tipo Quincy. Esatto. Li controllano uno per uno. Ed è uno spettacolo, Che spettacolo. Perché loro non è che basta vedere che il pollo se ne sta lì immobile, che sembra che dorma. È perché ci sono sempre quelli che fanno i furbi e fingono di morire. Ah, sono furbi, così si salvano. Fanno finta di morire. Li spennano. Gli tagliano le zampe da vivi invece che da morti. E la differenza è tutta lì, Ecco. Poi alla fine gli tagliano la testa e non c'è più nessuna differenza. Mamma mia. Che tristezza. Davvero. Appunto, io infatti sono in sbattimento, no? E quindi prendo la porxetina. Giusto. Ma sono in sbattimento lo stesso. E il dottor Freud, la paroxetina, lo sbattimento. Shh, zitti. Ma cosa c'è? Cosa c'è? Cosa dice questa voce? Se continuate a parlare. E che ne so io? Non parli tedesco tu? Sei qui sempre. No. però so tutti i titoli degli album di Popol Vuh e dei Kraftwerk. Ah. Autobahn, Der Mesh Machine, Die Nacht der Seele, Selin Sprensung e In Jager in Siebenheiger. Hai visto, capo? Fantastico! Un pollo krautrock! Fantastico. Esatto, puoi dirlo forte! Oh. Ai miei tempi poi non li ascoltavo nessuno i dischi di krautrock. Lo so. Adesso sono tutti lì ad esaltarsi, ma ai miei tempi sì. Lineare Verstärkung, non so, a me sembra che dica così, però non sono tanto sicuro. Lineare Verstärkung, sembra il titolo di una canzone krautrock, in effetti. Sì, come in Jäger, in Siebenjäger. Lineare Verstärkung. Das ist keine Werbung. Das ist eine Verstellung. Alle Händchen ähnliche Bewegung. Durch die Elektrizitätsleitung. Lineare Verstärkung. It is later than you think. La fabbrica di polli. E io dovrei andare dal veterinario, secondo... Sì, voi? Sì, direi proprio di sì, Cap. Beh, anche tu, Drago, però, Io perché, scusa? La polizzazione si trasmette per via sessuale. Sì, e quindi? E quindi a me non interessa quello che fate voi due, però... Infatti, no, infatti non ti interessa, ma poi non è il nostro caso, vero, Cap? Lo chiedi a me, Drago, ma cosa fai? Ma tu hai dei dubbi? Vabbè, quando dormo non so cosa fai. Ma sai, cosa stai sonnambulismo, dicendo? Ma che sonnambulismo? So Comunque, Drago, anche tu sei destinato a diventare un pollo, ma eh? Ma sì, sì, vabbè. Perché io prima cosa credevi che fossi? Un pollo? No, io ero un negoziante di dischi. Che cosa? Io prima vendevo dischi di krautrock. Solo dischi di krautrock? Sì. E com'è finita? Sono fallito. Beh. E cosa è? Non so. Non è facile vendere dischi di krautrock e mantenersi. Cioè... Sì, bravo, lo dici a me. Sì, però bisogna anche dire che una volta gli uomini andavano a lavorare alla Fiat, alla Pirelli, alla Montedison e si compravano la casa, si sposavano, facevano studiare i figli e tutte quelle cose lì. Adesso invece gli uomini aprono un negozio di dischi krautrock. Non è la stessa cosa ed è giusto che non abbia gli stessi esiti, scusa, Perché, Drago, scusa, cosa c'è di sbagliato a voler vivere vendendo dischi di krautrock? C'è che per vivere facendo quello dovresti essere l'unico che vende i dischi di krautrock in tutto il mondo. Beh, io ci ho provato, A far cosa? A diventare l'unico del mondo. E poi? E ho ingaggiato un killer per fare fuori tutti gli altri. Ma che killer? Per cercare tutti. E poi cosa è successo? E poi sono andato in sbattimento. E Pollo, dov'è l'ambulatorio? Dov'è l'ambulatorio del dottor Freus? Venite, mi accompagno io. Andiamo, Kappa, vieni con dai. Noi, dai. Su, dai vieni. Che vi accompagno. Dai, prendilo allora. Anche tu per un braccio e portiamolo via, perché Kappa. Qui veramente le cose. Bisogna fare in fretta, Drago, questo ormai è capriccioso, è solo capriccioso. Dai, prendiamo la scorciatoia, seguitemi. Ma basta questo cocò. Drago, zittiscelo tu. Che cosa succederà adesso? Quale sarà la diagnosi del dottor Freus? E qual è il reale valore commerciale del krautrock nel 2006 d.C.? Per saperlo, sintonizzatevi domani a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo ospedaliero allestimento de... La fabbrica di polli. La fabbrica di polli produce, non chiude. Good night, ladies. Warum?